24 mattino. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta l'aceto. Pavarotti, ieri l'anniversario, doveva venire anche lui qui a farci visita, irrompe la sua voce, la sua storia, la sua grande carriera, la sua vita piena di eccessi, ma anche di gioia. Allora partiamo da lui, e però andiamo subito sul tema del giorno: i migranti, la malaria, la zanzara. I giornali sono pieni di questo racconto, e io vorrei cominciare da questa cosa incredibile. Per la prima volta arriva una barca perfino a Lipari, non era mai accaduto, pensate, ma è incredibile che tipo di sbarco è stato. Avevano pagato $6,000 a testa per essere portati fino alle coste della Francia, e invece, ci racconta Alessandra Ziniti su Repubblica, li hanno lasciati alle isole Eolie, dove di migranti non è mai sbarcato neanche uno. Le isole dell'arcipelago siciliano sono fuori da ogni rotta, o almeno lo erano. All'alba di ieri, invece, su una spiaggetta inaccessibile da terra, sono approdati in 63, e pensate le statistiche, dico io. Tutti iracheni e siriani, con banconote di grosso taglio in tasca e documenti, arrivati fin nella stiva di un caicco partito dalla Turchia. Uno dei cosiddetti viaggi di lusso che gli scafisti ucraini riservano di solito, che è in grado di pagare dai 5.000 ai $7,500 a persona. Due neonati, 14 bambini a bordo, 16 donne e 33 uomini lasciati sulla spiaggia ai Fontanelle da un gommone, poi abbandonato agli scafisti, che sono invece riusciti a dileguarsi. È incomprensibile la scelta dell'approdo a Lipari. Dai racconti dei migranti sembra che la destinazione del viaggio fosse addirittura la Francia, perché lì volevano andare. Per questo la barca era entrata nel Tirreno, una tratta mai fino ad ora tentata. Certo è che le nuove rotte, dopo il blocco delle partenze della Libia, contano un numero di arrivi in continuo aumento. In 48 ore sono in Sicilia 170 persone, con due sbarchi consecutivi sulla spiaggia di Siciliana, nell'Agrigentino, mentre anche le navi delle ONG, spostatesi più a est, hanno ripreso i soccorsi. Due, quelli effettuati ieri dalla nave spagnola Open Arms, con la nascita a bordo di una bambina. Ma sentite la storia, e sto sempre leggendo la cronaca di Repubblica, sentite la storia di questi siriani. Siamo partiti da Istanbul alcuni giorni fa, all'alba ci hanno detto che eravamo arrivati in Francia, ci hanno trasportato a terra. Il racconto dei primi migranti soccorsi alla guardia costiera, allertata da alcuni pescatori accortisi della presenza in spiaggia, è questo: un piccolo gruppo attraversa un sentiero tortuoso, riesce a raggiungere il porto prima dell'intervento della capitaneria. Lì, capito di non essere affatto in Francia, hanno avuto la prontezza di salire sul primo aliscafo per Milazzo, dopo aver acquistato un regolare biglietto pagando con banconote da €200. I carabinieri li hanno intercettati alla stazione con il biglietto per Roma. E questa è l'altra realtà. L'altra realtà di questo fenomeno: immigrazione ricca, quella che la Merkel ha voluto e ha cercato di attirare in Germania. Adesso arrivano a Lipari. Però il nonno, io voglio farvi sentire il nonno di Sofia, sempre da Repubblica, una bella intervista dell'inviato Giampaolo Visetti. Noi non accusiamo nessuno, tocca ai medici dirci come e perché Sofia è stata uccisa dalla malaria. Forse però negli ospedali qualcosa va aggiornato quando pazienti con questa malattia o i loro parenti con i bagagli entrano in contatto con gli altri, e lo dico pensando prima di tutto con affetto alle bambine africane che hanno incontrato mia nipote al Santa Chiara. Sarebbe imperdonabile se ora venissero isolate dai loro amici oppure a scuola. Rodolfo Ferro è il nonno materno di Sofia, ci racconta Videtti. Sono passate da poco le 8 quando esce dalla porta a pian terreno con il cane lupo Bairo nel quartiere di Piedicastello e raggiunge il cancello della Villa Gialla sotto il DOS Trento. Pensa che si poteva fare qualcosa di più per Sofia? No, la famiglia è convinta che tutti abbiano fatto il massimo. Siamo riconoscenti anche per il calore che sentiamo intorno a noi. Il mondo però c'è improvvisamente crollato addosso, e sembra sempre più probabile che la presenza di una famiglia reduce dall'Africa e ammalata di malaria negli stessi giorni in cui mia nipote è stata in ospedale possa spiegare la tragedia. Non facciamo accuse. Rilevo che il mondo è cambiato, che tutti andiamo lontano, che assieme alle persone e alle merci possono viaggiare anche insetti e virus. È la globalizzazione. Forse anche gli ospedali devono prendere atto di questo clima che è cambiato. Dopo il 21 hanno dimesso Sofia per il diabete, abbiamo festeggiato qui il suo compleanno, fra il cortile e il giardino. Pochi giorni fa correva e cantava, sembrava guarita, giocava con il suo cane. Sabato invece il suo raggio di sole si è spento. Però questa era l'ultima cosa che voglio leggervi. Da nonno, ora penso a quelle due bambine africane. La piccola aveva la stessa età di Sofia. Spero che nessuno le faccia sentire in colpa o che non si ceda alla tentazione di isolarle. Beh, un grande racconto, una grande testimonianza civile. Però sul modo in cui si è trasmessa la malattia è ancora un pieno giallo, nel senso che si restringe il campo delle ipotesi, ma non è ancora chiaro. Allora la parola, e lo leggo sempre in Repubblica, che oggi ha fatto gli straordinari con Cristina Nadotti, il capo della task force del ministero Raniero Guerra. La tempistica, attenzione, e questa è la voce più autorevole, ma una delle poche che sostiene, mentre tutti oggi propendono per la famosa zanzara, la tempistica fa sospettare di bibione. È probabile, dice Raniero Guerra, ispettore del ministero, che il contagio sia avvenuto in campeggio. Non escludo l'ospedale, ma penso al campeggio. Stiamo valutando con più attenzione, dice all'inviata di Repubblica, la possibilità che la bambina sia stata conteggiata prima del ricovero in ospedale a Portogruaro, dove è stata il 13 agosto, e a Trento, dove è stata dal 16 al 21 agosto. Abbiamo ricevuto tutta la documentazione e valutato i tempi di incubazione della malattia fra i 14 e i 20 giorni, che sono perciò compatibili con le date in cui Sofia era al mare. Attenzione, perché questo passaggio sarebbe davvero molto importante e potrebbe essere un'altra ipotesi, ma a stabilire con certezza che cosa accadrà sarà un esame del DNA, esattamente come nelle indagini criminali il DNA permetterà di capire se se è la malaria trasmessa dallo stesso parassita delle altre due pazienti e anche dallo stesso vettore, cioè da una zanzara. Allora, primo sul Corriere, la madre, il racconto della primaria, la pediatra che curava la vittima, la signora Annunziata di Palma, intervistata da Alessandro Fulloni. Sofia e le malate nel mio reparto non hanno mai giocato insieme, non so cosa sia successo, sono distrutta. Guardate che però sul Corriere un'altra tesi, Adriana Bazzi, gli esperti e il mistero del contagio, la siringa infetta è il caso più plausibile, ma sarebbe un incidente enorme. E questo lo sostiene Massimo Galli, 66 anni, professore dell'Università di Milano. Poi di nuovo un pezzo di Fulloni, quello che spiega che c'è un'inchiesta per omicidio colposo e che oggi si svolgerà l'autopsia. Dice Fulloni, il parassita è lo stesso. Plasmodium falciparum ha causato la morte lunedì per malaria di Sofia Zago, la bimba di 4 anni ricoverata d'urgenza agli ospedali civili di Brescia dopo essere stata in cura per un sospetto diabete. E la cosa interessante è questa: il medesimo e letale microorganismo è stato trovato dai biologi nel sangue di due sorelline di 11 e 4 anni provenienti dal Burkina Faso. Ora, assieme alla famiglia, erano state per un soggiorno dai parenti in agosto. Se il ceppo del falciparum sia lo stesso, scrive Fulloni nel suo articolo, l'ipotesi che stabilirebbe come il contagio sia avvenuto in corsia per un errore medico crescerebbe, e lo stabilirà un esame del DNA in corso all'Istituto Superiore di Sanità di Roma. Il responso dovrebbe giungere entro pochi giorni. Allora, perché vi dico prudenza? Perché abbiamo letto opinioni interessanti, esperti di altissimo livello, che tutti con elementi parziali che hanno a disposizione sostengono tesi diverse. Qualcuno dice che la zanzara, qualcuno dice addirittura, perché è esperto di trasfusioni, che si tratta del sangue, e qualcuno pensa che ci possa essere addirittura un contagio avvenuto da un'altra zanzara, non quella della valigia, nel campeggio dove era stata in vacanza la bambina. Quindi tante cose diverse, e l'unica cosa che possiamo dire senza dire follie è prudenza. Ma allora parliamo delle pensioni, torniamo a quelle lacrime della Fornero perché dobbiamo parlare dell'APE. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Allora, il sacrificio fu chiesto, ormai è nei libri di storia, e quella era la voce di Mario Monti insieme al ministro Elsa Fornero. Fu chiesto nel lontano 2011, ma gli effetti arrivano adesso. Allora, Claudio Antonelli sulla Verità, ma sono tanti i pezzi oggi che ragionano su questa scadenza. L'APE più la Fornero e le donne sono fregate. In pensione a 67 anni, un caso unico in Europa. La riforma del 2011 prevede l'adeguamento automatico dal 2018 e intanto si studia l'uscita anticipata pure per le lavoratrici che pagano, che faticano. Il prossimo gennaio, esattamente come previsto dalla riforma datata 2011, scrive Antonelli sulla Verità, scatterà l'adeguamento dell'età pensionabile fra donne e uomini. Anche le prime si ritireranno dal lavoro a 66 anni e 7 mesi per poi assistere a un nuovo innalzamento dell'età 67 anni il 1 gennaio del 2019. Per le modifiche di gennaio non servirà alcun decreto, basterà che il governo, non facendo nulla, e come aveva chiesto la ragioneria dello Stato, lasci che venga applicato lo scatto automatizzato. Per il 2019 invece, e qui si apre il dibattito, vi dico io, ci sono margini di manovra, ma non sembra esserci la volontà politica. Il trend infatti ci dimostra che da un lato il cosiddetto adeguamento all'aspettativa di vita viene definito imprescindibile per evitare buchi di bilancio insanabile. Secondo Tito Boeri, numero uno dell'INPS, non rispetterà lo schema, costerà da qui al 2035 circa 140 miliardi di euro. E questa è la vicenda dell'APE. Ricordate i vostri messaggi al 349-238-6666. E ci fermiamo per la pubblicità. Quattro mattino. Quattro mattino, Luca Telese, 349-238-6666, per guidare anche voi questa rassegna, questo racconto, il romanzo di questa mattinata. E siamo partiti da questa canzone dei Police, la ricorderanno quelli che ormai incominciano ad avere i capelli bianchi, de du du du, de da da da, perché c'è una piccola grande tragedia. Stiamo parlando di insetti, purtroppo, questa volta non sono zanzare, sono le api che tormentarono l'Inghilterra con la loro estinzione. Ebbene, Sting, il leader dei Police, sapete che il suo nome d'arte vuol dire pungiglione, Matthew Summer, è rimasto senza api. Da tempo amici e collaboratori non lo avevano visto così preoccupato. Gordon Matthew Thomas Summer, in arte Sting, sembrava non pensare altro, ci racconta sul Corriere della Sera Marco Gasperetti. E stavolta non era per la mancanza di creatività o di fan, che non l'hanno mai abbandonato, per qualche bega burocratica, ma per la sorte dei 60 alveari che arricchiscono la sua tenuta a Palaggio, 300 ettari e una villa rinascimentale nel cuore del Valdarno, a pochi chilometri da Firenze. Le api rischiano di morire, non hanno né cibo né acqua, vanno spostate al più presto, ha detto il genio del rock, che dal 2002 possiede una tenuta in Toscana dove produce vino, olio e miele biologico. Le 50 api di Sting, 50.000, sono state trasferite in un campo di ciliegi, 5 ettari che prima della grande siccità erano un vero paradiso, ma il problema non è stato risolto completamente. Non solo la produzione di miele si è ridotta della metà, pensate, ma per salvare le api sono dovuti intervenire i rianimatori, agricoltori specializzati nell'alimentare gli insetti con un preparato speciale di acqua e zucchero. E quando è arrivata la prima e sospirata pioggia, pare che lo stesso Sting abbia ricordato le parole di Fragile, uno dei suoi successi: la pioggia continuerà a dirci quanto siamo fragili. Beh, questa è poesia, perché dentro c'è tutto, c'è l'ecologia, l'ambiente, la produzione, il mercato e ovviamente anche i conti con il clima che dobbiamo fare. Allora, volevo andare raccontarvi Li Libero. Avevamo raccontato ieri e sentito il suo direttore. Oggi continua la sua campagna: la verità sui neri irrita, i media negano che la malaria arrivi dall'Africa, i furibondi attacchi a Libero, e sto leggendo la prima pagina di Senaldi, per aver raccontato i motivi per cui la bimba di Trento, Sofia, è morta all'ospedale dopo essere stata vicino a una famiglia del Burkina Faso con contagiata dallo stesso virus. E ovviamente Libero insiste, Senaldi di nuovo torna a scrivere, ecco il suo fondo: dire la verità sugli immigrati dà fastidio, ci crocifiggono perché abbiamo spiegato che è stata contagiata Sofia dagli africani, ma chi ci dà lezioni nasconde la realtà. Questo il pezzo di Senaldi. Invece oggi la verità è piena di cose curiose. Io ho trovato solo su questo giornale la vicenda incredibile, la racconta Amorosi a pagina 8, delle croci. Le croci, via le croci dalla confezione di cibo, la Lidl costretta alla retromarcia. La scelta iniziale, scrive Antonio Amorosi sul quotidiano di Belpietro, niente simboli cristiani sulle scatole di prodotti greci per invogliare gli islamici all'acquisto. Poi, dopo le critiche di molti paesi, viene costretto il colosso ad ammettere l'errore. Presto aggiorneremo la grafica. E che cosa era successo? Ve lo devo descrivere, perché ovviamente qui c'è la foto della confezione. Era stata raffigurata come emblema di questa scatola nel supermercato, una scatola di surgelati, una bellissima chiesa greca, è un'immagine quasi da fiaba, il mare azzurro, la cupola azzurro, solo che nell'originale c'era una bellissima croce su questa chiesa e nella scatola di surgelato della Lidl la chiesa è scomparsa. Nei prossimi 20 anni, ricorda Amorosi, la percentuale di consumatori di fede islamica in Europa crescerà di un terzo. Per tutelarli è stato introdotto, pensate, un altro marchio, Halal. E questa è una storia di quelle che secondo me fanno discutere. Non c'è bisogno di essere cristiani, non c'è bisogno di essere ortodossi, maroniti, cattolici. Se uno toglie una chiesa dalla realtà, se uno toglie una croce da una confezione di surgelati, anche se sei l'uomo più laico del mondo, non puoi non pensare che non sia una falsificazione e un crimine. Allora andiamo ai soldi, perché io sono sempre appassionato in Italia del tabù che c'è sui soldi. Non se ne può parlare, non si può parlare di stipendi, tranne quando diventano pubblici. E questo è il caso che ci racconta Anna Maria Greco, ma che è su tutti i giornali. Anna Maria Greco sul giornale di Sallusti ci racconta la telenovela del compenso di Fazio, 410.000 euro a puntata, ma la RAI gli impone uno sconto, e vorrei vedere, ma non perché sono contro ovviamente le retribuzioni, ma mi sembra uno stipendio leggermente superiore al mercato. Ed ecco come sta andando sia per lui che per Vespa, che sono accomunati in questa vicenda. Fabio Fazio, scrive la Greco, viene promosso all'unanimità dal consiglio di amministrazione di Viale Mazzini, da Rai 3 a Rai 1, con un super contratto da 12 milioni di euro l'anno per la produzione di Che Tempo Fa e del programma di Massimo Gramellini, ma accetta uno sconto, bontà sua, di 800.000 euro rispetto alle pretese per la nuova società che ha costituito l'Officina, è una joint venture fra Magnolia e lo stesso Fazio. Anche il compenso d'oro di Bruno Vespa ottiene via libera, ma sempre con lo sconto, e stavolta del 30%. In più il contratto sarà biennale e con un'opzione per il terzo, da 1.800.000 euro, sentite bene, a 1.260.000 euro per 120 serate come l'anno scorso. Questo è il contratto di Vespa. Un segno di solidarietà, spiega il conduttore, con i dirigenti della RAI, ai quali è stato imposto retroattivamente un forte taglio retributivo, con l'auspicio che la norma venga rivista Questo dice Vespa. Terzo punto nella riunione di ieri, racconta la Greco, la proposta venuta dal consigliere Carlo Freccero e fatta propria dal direttore generale Mario Orfeo e del tutto il consiglio di nominare Milena Gabanelli con direttore di Rai News con delega allo sviluppo del web e del data journalism. Però guardate che questa soluzione che nel pezzo della Greco viene raccontata e spiegata come se fosse praticabile suscita l'ira del Fatto Quotidiano che annuncia un'indiscrezione, proposte indecenti, la RAI caccia anche Milena Gabanelli. Due articoli, quello di Antonio Padellaro, lei è troppo libera per il clan dei malaffari, e poi una interpretazione di Gianluca Roselli che dice CDA e Orfeo le offrono con direzione sito di Rai News 24, cioè nulla. La giornalista, questo è interessante evidentemente, anche se non c'è un'intervista diciamo esplicita delle fonti, abbiamo dato questa voce a Roselli, la giornalista non ci sta ad essere dimezzata, era arrivata per costruire il portale della RAI, non per gestire quello di Bella. Così scrive Roselli sul Fatto Quotidiano, la Gabanelli è stata messa in naftalina, la redazione c'è, l'aspetto grafico e tecnico del sito è già pronto, ma non si può partire. Da qui, di fronte al suo crescente nervosismo, la Gabanelli ha chiesto al direttore generale di stralciare il progetto del web, far viaggiare Rai24.it su un binario diverso rispetto a quello del piano di informazione, in modo da far partire subito il portale e poter andare online. Ma la maggioranza del CDA e lo stesso Orfei le hanno risposto picche. Il web sarà una parte fondamentale della nuova informazione RAI, ma non può essere stralciato dal piano generale. E di qui la notizia che si arriva al muro contro muro. Ci prepariamo a un altro calciomercato? La Gabanelli potrebbe andare via? Il Fatto lo dà per probabile, lo scopriremo solo vivendo. Strade. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta "24 mattino". Tutti super aria, tutti quanti storie dell'attualità. E ti racconti ancora in testa quelle favole. Tutti giù per aria, cantava Luca Bussoletti con una canzone dedicata alla crisi dell'Italia, ma quella precedente, quindi la canzone è ancora attuale ed è attualissima perché oggi il Sole 24 Ore dedica molto spazio, giustamente, a due grandi crisi industriali. Mara Monti ci racconta di Ryanair, offerta vincolante per Alitalia. Potrebbe essere il CEO Michael O'Leary, il vettore italiano potrebbe essere acquistato quindi da quello irlandese. Partiamo subito da cosa racconta lui, il protagonista, il folcloristico, funambolico, esplosivo amministratore della compagnia che ha il simbolo dell'ARPA. Non vogliamo acquisire l'Italia per farla diventare una copia di Ryanair, racconta Mara Monti. Alitalia è un brand famoso, molto importante e puntando sui collegamenti a lungo raggio potrà tornare a crescere velocemente. Di quanto, si chiede Mara Monti citando queste frasi di O'Leary, superando 30 milioni di passeggeri dagli attuali 20 milioni entro i prossimi 5-10 anni. È la ricetta che il CEO di Ryanair ha atterrato per la prima volta in Italia dopo essere venuto allo scoperto sulla sua proposta per Alitalia, dicendosi pronto a presentare un'offerta vincolante entro il 2 ottobre, illustra così: siamo coinvolti nel processo di Alitalia e dopo la manifestazione di interesse, entro alla fine del mese presenteremo un'offerta vincolante. Così ha detto il manager a Bologna per la nuova campagna voli del capoluogo emiliano, offerta che riguarda la parte aviation, una novantina di aerei a corto e lungo raggio, numero che non può essere superato per non incorrere nelle problematiche antitrust, essendo Ryanair già il primo vettore italiano. Fra i nuovi gruppi che finora hanno presentato offerte non vincolanti, Ryanair è il primo a essersi detto pronto al passo successivo. Ecco, questa è la crisi di Alitalia, la prospettiva di Ryanair, quella che tutti consideravano la più probabile, raccontata da Maramonti sul Sole. E però c'è un'altra vicenda che ci interessa molto. Ex Lucchini, la Cevital arriva al capolinea. Calenda, la situazione non è più rimediabile, è arrivato il momento di cercare soluzioni alternative. Questo è quello che ci racconta Matteo Meneghello da Roma, sempre sul Sole. Il commissario Nardi contesta al gruppo algerino, la Cevital appunto, il complessivo inadempimento di tutti i termini e degli obblighi contrattuali. Avevano comprato, si erano impegnati a stabilire e a rispettare alcune condizioni, non ne hanno ancora rispettata nessuna. Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda sancisce la fine dell'era Aferpi Cevital. È arrivato il momento di cercare altre soluzioni, ha spiegato ieri, ufficializzando così l'avvio della procedura di rescissione del contratto con il gruppo algerino, che 2 anni fa aveva rilevato in Toscana gli asset di Piombino della ex Lucchini in amministrazione straordinaria. Il confronto con Cevital, sono parole del titolare del Mise, è sempre stato franco e da parte nostra è stato fornito ogni possibile supporto. La mancanza di attendibilità degli impegni assunti da Cevital, confermata anche dalle difficoltà riscontrate in queste settimane, sono difficilmente superabili. Si parlava di una rinascita dell'acciaieria, vi ricordo io, si parlava dell'altoforno riacceso, siamo tornati purtroppo in altissimo mare e questo dispiace. Allora, vi ricordavamo ieri, abbiamo aperto la mattinata con le parole di Gino Strada su Minniti, sbirro, ebbene si accende la polemica. Minniti ha una storia che è una storia da sbirro e va avanti su quella strada lì. Tu sei un cittadino democratico, tu non sei un cavallo, tu non sei un cavallo. E perché abbiamo messo Gian Maria Volonté? Perché sbirro è chiaramente un insulto, non ci si può girare indietro. La maca di Michele Serra oggi ragiona proprio su questo. Gino Strada, che dà dello sbirro a Marco Minniti, è la certificazione, ce ne fosse ancora bisogno, della morte della sinistra italiana, scissa in 2 parti mai più unificabili, una virtuosa ma spocchiosa, l'altra realista ma compromessa. A segnare l'irreparabilità della situazione è l'uso della parola sbirro, che nel gergo malavitoso e curvaiolo carica di un disprezzo umano e politico senza nessun appello. Non esiste più, scrive Michele Serra, luogo di dibattito, tantomeno di riconciliazione fra questi 2 stati d'animo. Nel Partito Comunista convivevano gli stalinisti e i movimentisti alla Ingrao, gli statalisti e gli autonomisti. Nella Democrazia Cristiana Dossetti e Scelba, nella Chiesa i Giovannei e i Lefebvriani. Oggi è guerra per bande, odio libero di sprigionarsi, nessun contenitore è in grado di assorbire questi gas tossici, come quelli che conservano in casa certi semi perduti e certe memorie consumate, mi rendo conto di vivere e forse di sopravvivere da ossimoro. Verso da secoli il mio 8 per 1000 emergency, ma non vorrei Gino Strada come ministro degli interni, né Minniti, a ricucire gli sbudellati di guerra. Sono sicuramente incoerente, conclude Michele Serra, ma nel mio cortile, forse solo nel mio cortile, la sinistra esiste ancora. E su questa polemica ovviamente ci sono altre voci e interviene in difesa di Minniti, pensate, Libero, con un pezzo di Fausto Carioti, chi tifa, chi chiama sbirro Minniti tifa i criminali. Gino sempre sulla cattiva strada, beh, un gioco di parole insomma un po' così. A pagina 7 il pezzo di Carioti, per chi lo vuole leggere, è una reprimenda contro, ovviamente contro Strada, offende poliziotti e carabinieri, e lui che non cambia è ancora quello degli scontri di piazza degli anni 70. Vedete che si torna addirittura ai precedenti movimentisti di Gino Strada, stiamo parlando di mezzo secolo fa, ma in Italia è sempre così. Allora, abbiamo parlato di Minniti, abbiamo parlato della vicenda incredibile industriale che riguardano l'Italia, adesso ci fermiamo un attimo e andiamo nel campo della politica.